Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. 8:20, caro Oscar, siamo qui. 30 di novembre. 30 di novembre. E anche novembre è praticamente andato. Eh sì. Allora, oggi... oggi un santo che mi piace tanto, perché mi piace il personaggio, Sant'Andrea. Sant'Andrea è, pensa, il primo che poi diventerà, insomma, tra gli apostoli, in cui si imbatte Gesù, perché lui stava dietro il Battista, e un giorno il Battista intravede un tipo che ha battezzato il giorno prima, dei Vangeli, dice: eccolo là. E lui si ferma, indica tutti, eccolo lì, l'agnello di Dio. Ed era il Signor Cristo. E a quel punto Andrea, che era il fratello di quello che poi diventa Pietro, va dal fratello e dice: ma vedi un po' qua. E allora quello si avvicina e gli dice: tu d'ora in poi ti chiamerai Cefa. Ecco, e così nasce questa grande storia che i cristianesimo dicono i Vangeli. Questo Andrea mi è sempre stato simpatico, perché è il tramite di una catena di eventi di cui era completamente inconsapevole. Molto la testa di Sant'Andrea e il corpo stanno in Italia, per vicende che sono state determinate dalle crociate. La testa poi fu rinviata da Papa Paolo VI a Patrasso, mentre il corpo è appunto dalla quarta crociata, sta nella cattedrale di Amalfi. Ed è anche un giorno con un'altra storia di un santo un po' particolare, perché sembra un po' uscire dalle storie di Avalon. Non so se sei mai stato all'abbazia di San Galgano in Toscana, che è quella scoperchiata nel Senese, sembra un posto dove hanno girato un film in realtà. E c'è lì vicino, a Monte Siepi, una piccola cappella dove c'è la spada nella roccia di un cavaliere. E oggi si celebra, perché questo è un cavaliere realmente esistito. Quella è davvero la sua spada, che con cui rinunciò alla sua etica cavalleresca, quindi violenta, nel 1181. Divenne eremita e divenne già santo nel 1185, San Galgano. San Galgano, e siccome Galvano è il nome di uno dei cavalieri della Tavola Rotonda, c'è questa appendice vera, per così dire, dei romanzi cavallereschi anche in Italia. Tra i tanti avvenimenti del giorno, 1789, il Granduca di Toscana per la prima volta nel mondo abolisce la pena di morte. Se pensi a quanti paesi ce l'hanno ancora, fa un po' riflettere. Tra chi era nato oggi, Churchill, Enzo Tortora, andiamo al politicamente correttissimo Fabio Fazzi, Don Mazzi, che è ancora qui tra noi, e speriamo, io sono abbastanza tifoso di questa, è una specie di sbiellato simpatico, sì. Don Mazzi, devo dire la verità, e il grande regista Ridley Scott, il mio amatissimo pianista Radu Lupu, e Claudio Pavone, grande storico della Resistenza, ex partigiano, morto proprio l'altro ieri, il primo che ebbe il coraggio a sinistra a scrivere libri sulla Resistenza anche come una guerra civile. Allora, alle 8:23 minuti diamo il numero di telefono 800 24 0024. Sicuramente parleremo un po' di referendum, perché oggi avremo il ministro Graziano Del Rio, ministro infrastrutture e trasporti, anche di qualcosa relativo ovviamente al suo ministero. Però Oscar, come dire, c'è lui, questa figura che si staglia, di cui tutti parlano in maniera secondo me anche un po' impropria, soprattutto sui social, dopo le ultime sue non certo meritevoli imprese, vale a dire il Lapo Elkan, che da New York, insomma, ne ha combinata un'altra delle sue, chissà dov'è adesso. Ma guarda, sai che la questione è seria, ha scoperto che rischia dai 2 a 10 anni di carcere, deve presentarsi davanti a un giudice il 25 gennaio, cioè ha commesso un reato che è considerato felony, molto grave, molto grave, la legislazione americana. Però io ieri ho twittato, visto che anche tu sei d'accordo, hai scritto su Twitter: non mi piace, ma non voglio fare nel moralistone, il bacchettone, ma non mi piace tutta questa ironia, io l'ho definito bimbo minchiosa, su così le battute, le caricature. No, perché purtroppo sono ovvie in quanto personaggio pubblico, ma la famiglia a cui appartiene, eccetera, eccetera. Però, cioè, voglio dire, con accenti diversi, abbiamo entrambi richiamato sul fatto che questo benedetto ragazzo non cresciuto appartiene a una famiglia in cui sono evidenti i segni, no? come devo dire, malessere psicologico, cose, cioè, esponenti diversi, creati da una condizione evidentemente particolare. Hai visto che Libero è stato un po' duro? Ecco, buon sangue non mente. Però ecco, io mi limito a dire che ai miei occhi è umanamente uno che non riesce a venire a capo di un problema evidente, quindi va secondo me aiutato, per quanto possa sembrare strano anche la maniera in cui si è comportata la famiglia in realtà, e un tentativo di dirgli guarda che bisogna dare un giro di vite al programma che stai seguendo. Ieri l'hai detta in tono sabaudo, ecco, ho detto Sagirumanè, e quindi insomma ci vuole. Allora tutto questo è ovvio che poi si riduce a, no, a un'operetta facile, del resto bisogna anche evitare di sembrare che siccome si chiama l'Apo allora uno diventa comprensivo mentre invece è duro e indifferente verso chi ha problemi seri e non appartiene a grandi famiglie e non ha soldi da spendere, quindi è una è un crinale difficile come sempre quando hanno problemi seri delle celebrità. No, ma perché non si tratta di assolvere poi nessuno, io non lo conosco personalmente, non è un mio amico, non è che lo devo, come dire, non devo fargli pat pat sulla spalla, non lo conosco. Però questa storia di buttare addosso la croce, sfogare la propria voglia di divertimento, la propria voglia di su una persona che evidentemente dei problemi seri li ha, non so, l'ho trovato un po' sgradevole. Ma guarda che abbiamo chiamato un imprenditore, ecco, presidente di Brescia Mobilità, Flavio Pasotti, che sugli Stati Generali, sito gli Stati Generali.com, ha fatto addirittura un post in difesa di Lapo, per la verità, dicendo guarda cosa mi tocca cosa fare, mi tocca fare, cosa mi tocca fare. Esatto. Salutiamo Flavio Pasotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto. Non lo so, perché in difesa di Lapo intanto? Ma in difesa di Lapo perché in realtà ieri mattina la sua è stata la prima buona notizia che ci ha messo di buon umore, no? Perché in una situazione in cui Silvio non si occupa più delle oggettine, qui si parla sempre di referendum in un modo tristissimo, Lapo ci ha messo un briciolo del suo. Dopodiché l'inizio sembrava anche una cosa divertente, poi ha preso, soprattutto sui social, un tono così bacchettonistico moraleggiante che c'è stato veramente da chiedersi cosa stava scattando in questo paese. E francamente alla fine l'idea di io, che sono un piccolo imprenditore, dover scendere in questa difesa di Lapo Elkan ha un aspetto altrettanto ridicolo, però è sincero. Ovvero, Lapo alla fine che ha fatto? Si è rovinato un pezzo di lui o ha cercato di vivere la sua vita? E allora se ha cercato di vivere la sua vita, perché andargli a fare la morale? Il problema di Lapo è la coca, va bene, ma il resto per quale motivo andare a giudicare come uno vive la sua vita? Ma la morale, dove l'ha vista? Sul transessuali? Ma no, c'è su tutto. La cosa bella è questa, perché c'è chi si appiglia alla storia dei transessuali, l'altra volta gli altri che si appigliano alla questione della cocaina, gli altri che si appigliano soprattutto alla questione che questo è ricco e non deve permettersi di fare queste cose, e questo è un antico riflesso in Italia, per cui la ricchezza sa sempre un po' di zolfo e di conseguenza, come dire, ricco tu paga, come diceva Dario Fo. E questo non è molto divertente, diciamo. Non è divertente, no, io non ho trovato per niente divertente anche le caricature, certo le ho guardate anch'io, ho riso anch'io, quando dico non le ho trovate divertenti non vuol dire che non ho indugiato nel guardare, vedere le battute eccetera, però, non trovo il gusto poi nel condividere, nell'affondare insomma il coltello nella piaga, col dito nella piaga. No, ma soprattutto nel volerci fare la morale sopra, perché per carità di Dio, vuoi che non ci stia la battuta? Beh, insomma, io sono milanista, insomma, sono arrivati i Juventini con il loro solito fallo di simulazione, però insomma finisce lì, ecco, come dire, su quello ci puoi anche ridere, ma deve finire, cioè qui non puoi montare su un caso di questo genere un processo morale, questo francamente è antipatico, ha sbagliato, va bene, perfetto, gli faranno questo famoso processo, in America sono anche un po' più pragmatici, alla fine finirà con una bella multa, e qui in Italia una bella multona, esatto, il problema, esatto. Diremo che è il problema, qui sono stati i suoi grandi avvocati, no? È che la funziona così, cioè il problema che tu hai sbagliato, paghi, punto, e la cosa si chiude in questo modo. Ecco. Però, francamente, le reazioni che si sono viste sui social, ma guardate, reazioni di tutte e due, e sia di quelli che lo difendevano, che dice, poverino, questo qua, una famiglia difficile, che siamo tutti freudiani, è una cosa un po' così. E dall'altro quelli che invece imputavano il fatto che un ricco non può comportarsi in questo modo, francamente, ha fatto un po' morire da ridere. Questo paese dovrebbe essere un po' più attento alle libertà individuali e un po' meno attento alle a questi riflessi bacchettonistici che poi alla fine nascondono una straordinaria invidia sociale. E l'invidia sociale è una gran brutta cosa. Diciamo che c'è una specie di paradosso della storia, Flavio, nel senso che tanto al nonno era consentito, poiché l'informazione non c'era come adesso, non era né globale né puntuale, cioè l'avvocato Agnelli, il nonno, poteva permettersi qualunque cosa nella vita senza che nessuno lo sapesse, tanto all'epoca funzionava così per le classi dirigenti, in realtà era una lunga effetto a cascata di quello che potevano fare i principi del sangue nei secoli prima. Tanto oggi il contrario, invece l'informazione in tempo reale, puntuale, globale, senza limiti e senza canoni e soprattutto con il massimo dello scatenamento del moralismo immediato, va all'opposto. È una specie di bilancio della storia, nella storia di quella famiglia, ma come di tutte quelle esposte però. Sì, però ad esempio, ancora una volta, è un riflesso italiano, perché i giornali italiani hanno dato tutto il riflesso all'evento. Se voi andate a prendere il New York Times, è un pezzo fantastico, perché comincia ponendo il problema del crollo di borsa nel valore delle azioni, esatto, della società lì, e fa tutta la cronaca del crollo di borsa, intervista il manager della società, il manager dice: guardate, lui è solo presidente, ciò che importa nella società è la durata e la continuità che sanno dare i manager, e solo alla fine ricorda che costui in effetti è parente di quel grande Gianni Agnelli che fece una cosa grande in Italia e soprattutto si divertì molto. Ma l'aspetto di costume che pur c'è all'interno del giornale è la chiusura, prima alla fine vai la parte economica e la sostanza. Allora quello secondo me è un modo tutto sommato corretto per affrontare la cosa. Andare a guardare le mutande sporche, lasciatemi il termine, fosse proprio, come dire, suona male, ma è tipicamente italiano, eh? Guardate, la stampa internazionale gli ha dato, che è quella che ha lanciato la notizia, ha dato un taglio completamente diverso. Eh sì, sì, noi siamo un po' di bacchettonismo e di moralismo ce l'abbiamo. È un po' tanto, ce l'abbiamo diffuso. Anche perché è più facile scrivere trinciando giudizi morali che approfondendo, chiamare il manager e farsi vedere i numeri della società. Ammettiamo, ammettiamo che anche questo conta nel giornalismo italiano. Come no. Vabbè, siamo al centesimo, il lapo perde il pelo ma non il vizio, vedi che ci arrivano i messaggi, ma le battute, vedi che poi ci sono, vabbè, ma giusto così, insomma il gusto del motto, del motteggiare, del buttare. Però vedi, un imprenditore come Flavio Pasotti fa un bel pizzico di osservazioni su come si fa l'informazione, io mi sento personalmente ringraziarlo, però a volte da fuori si vedono meglio i difetti di quelli che stanno dentro in questa macchina terrificante che è l'informazione. No, ma intanto lo ringraziamo per essere stato con noi. C'è anche Paolo da Genova che ci chiama proprio su questo tema, mi dicono. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccomi. Che dice? Allora, no, sono il numero di telefono l'ho fatto al volo quando ho sentito Giannino che diceva che era un bambino non cresciuto. E allora ho detto, no, forse non è la definizione più giusta. Cioè, l'APO ha un problema come l'hanno migliaia di italiani e ragazzi al mondo, che è probabilmente la tossicodipendenza e la ricerca e la difficoltà ad inserirsi in una famiglia come quella, ma in un mondo pseudonormale. Però forse bisogna parlare di quello. Poi tutto il bacchettonismo è vero, siamo una razza terribile, ma l'APO ha dei problemi di tossicodipendenza. Su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio, Paolo, pur non conoscendolo, non immagino non lo conosca lei, ma insomma la cronaca racconta che periodicamente questo problema evidentemente deve essere ben chiaro. Va bene, vediamo, Stefano ci chiama su che tema, perché poi dopo parleremo del referendum e del Rio. Caro Stefano, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Io vi chiamo, spero di non anticipare i tempi, ma parlo per parlare di referendum. Si figura, si parla d'altro da mesi e mesi. Anticipare i tempi, dica. No, perché non ne posso più di essere trattato da celebro leso. Allora, anche ieri sera il nostro premier è partito dicendo che risparmiamo 500 milioni, ma su 824 miliardi di spesa pubblica, se non ho sbagliato i conti, stiamo parlando dello 0,06%, 2 centesimi di accise sui carburanti all'anno, e lui cambia 40 articoli della Costituzione per risparmiare lo 0,06%. Quindi lei dice il tema risparmi, costi della politica non è un tema che la convince molto legato al referendum, per usare un eufemismo, Stefano. Ma non con queste percentuali, Dio santo. Va bene, no, adesso lasci stare Dio. I santi ecco, e Dio. Perché già ci occupiamo troppo referendum e Dio avrà, speriamo, di meglio da fare anche lui che decide. Comunque Stefano, la ringraziamo, non so, magari partiamo. Ricordo poi tra l'altro che 500 qui. Milioni, insomma, basta vedere la voce.info, terza con questo dibattito. Non è esatto la cifra. Però che... ti dice 150. Carlo Stagnano dice bah sì 120-150 non sono neanche 500 invece basterebbe Arrigo. Allineare il costo medio pro capite delle regioni a statuto speciale che non vengono toccate la riforma a quelle delle altre regioni, quindi senza abolirle, per risparmiare come abbiamo visto 14 miliardi e 400 milioni, e però questo non si fa. In ogni caso, sì, su, anche sulle cifre, sappiamo che sulle cifre come c'è sempre dibattito. In Italia, anche il professor Ugo Arrigo che abbiamo avuto dava esatto. cifre diverse, ben più al ribasso di 500 milioni. Comunque, tra poco avremo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, parleremo del referendum e del suo ministero e vedremo che ci dice. State con noi. State ascoltando un programma offerto da... Più libri, più liberi. Fiera nazionale della piccola e media editoria dal 7 all'11 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Euro, Roma. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar, siamo qua alle 8:40 minuti. Eccoci. Allora, qua. Vogliamo dare il benvenuto a Graziano Del Rio, che è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Buongiorno, ministro, e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, ministro, ovviamente sul referendum si parla molto di più delle conseguenze più che del merito delle cose. Per esempio, oggi i giornali raccontano che Repubblica, nello specifico, lei farebbe parte di un gruppo, un centinaio di deputati e senatori pronto comunque a sostenere il governo Renzi, comunque vada, anche dovesse vincere il no. Ci può confermare, insomma, che è della linea Renzi vada avanti comunque? Ma io sono della linea che parliamo del merito per ora e parliamo dell'oggi, perché al dopo c'è il Presidente della Repubblica, quindi noi siamo certamente della linea di chi pensa che se vince il sì il governo avrà più forza e più stabilità per andare avanti, se vince il no bisogna prendere atto che non siamo stati in grado di convincere gli italiani dell'importanza di questa riforma e della necessità che ha questo Paese di snellire e di chiarificare i ruoli di Stato, Regioni, di togliere un Senato che fa le stesse cose della Camera, unico caso in Europa, quindi se non siamo riusciti a convincere dobbiamo prenderne atto, poi deciderà il Presidente della Repubblica, ma noi dobbiamo con molta onestà prenderne atto. Senta, signor Ministro, io le do volentieri atto, noi le diamo volentieri atto, come tutti, che uno dei pezzi della riforma della pubblica amministrazione, quello di cui si è occupato lei come Ministro competente, quello della riforma del trasporto pubblico locale, per esempio, ma evidentemente non per caso, non è colpito dall'intervento della Corte Costituzionale che crea problemi ad alcuni di loro perché dice non sono stati realizzati seguendo un iter di intesa vera nella conferenza Stato-Regioni. Il suo non è così. E secondo me... No, purtroppo anche il nostro, essendo stato incluso dentro al tema dei servizi pubblici locali, comunque pur non avendo avuto osservazioni specifiche è stato considerato parte del provvedimento. Ah, però il punto è, quello che le chiedo io è che al di là di questo c'è chi dice il ministro ha molto potenziato con non solo con le misure di quell'intervento, sono misure anche per la concorrenza, sono misure per svecchiare il parco, sì. Però detto questo alcuni dicono il ministro da una parte ci ascolta, dall'altro potenziando molto Ferrovie dello Stato, qui si parla di risorse per 90 miliardi in 10 anni di Ferrovie dello Stato, il governo accentra molto, mostra di voler accentrare molto nei prossimi anni attraverso la cura del ferro, però insomma Ferrovie vuole comprare pezzi di imprese oggi gestite localmente o oggi gestite da privati ed è una cosa di forte accentramento. Allora chi critica dicendo un po' troppo accentratrice la visione futura dei piani che appoggia il ministro Del Rio, ha torto secondo lei? Sì, ha torto perché noi siamo fortemente accentratrici sulla parte dell'infrastruttura, cioè io ho voluto mantenere pubblica l'infrastruttura ferroviaria, non farla seguire un percorso di quotazione e quindi voglio investire su questa infrastruttura, ma perché penso che un'infrastruttura pubblica con regole chiare di pedaggio stabilite dall'autorità dei trasporti sia la base per la liberalizzazione del settore. Tenere legato RFI sempre di più, rete ferroviaria, al destino di Trenitalia sarebbe stato sbagliato, perché avrebbe appunto alterato la concorrenza. Peraltro noi siamo l'unico paese in questo settore che fa veramente concorrenza, come lei sa bene. Abbiamo due aziende, questa concorrenza ha fatto bene nel campo dell'alta velocità, deve fare bene nel campo delle merci, tant'è vero che dal 2018 saranno privati che hanno già acquistato, diciamo così, hanno già prenotato delle tracce, saranno dei privati a far viaggiare anche le merci sull'alta velocità, altrimenti avremmo fatto un investimento francamente sproporzionato rispetto all'uso che ne stiamo facendo. Quindi noi non vogliamo, certo FS deve poter, Trenitalia deve potersi muovere sul mercato come un qualsiasi altro operatore, loro sceglieranno le alleanze, per esempio vogliono allearsi con ATAC di Roma, credo che ne avrebbero dei benefici i cittadini romani, detto tra me e voi, però insomma se poi ATAC non vuole farlo, nessun atto del governo interverrà mai. Sarà d'imperio, cioè non c'è un governo che dice ci prendiamo Trenord dalla Lombardia. Assolutamente, no, assolutamente, anzi le esperienze di gestione positive noi le lasciamo correre, come dimostrato dal fatto che, come lei sa, io sono molto autonomista, quindi non ho nessun tipo di problema. È chiaro che per esempio nel caso delle Ferrovie Sud-Est in Puglia c'è un'azienda che è stata oggetto di trascuratezze, addirittura di corruzioni, eccetera, che noi abbiamo messo a nudo, e quindi è chiaro che lì per esempio FSR ha valutato però da un punto di vista pienamente industriale il suo impegno, non perché il Ministero aveva bisogno di un partner. Tra l'altro, Ministro Del Rio, però tornando alla questione del referendum, quanto paga secondo lei questi litigi continui o battibecchi con l'Unione Europea, con l'Europa? Ma in realtà noi non stiamo litigando con l'Europa, almeno io non la vedo così, la vedo diversamente. Noi siamo i fondatori dell'Europa ed è bene che tutti si ricordino che l'Europa esiste perché c'è l'Italia e l'Italia anche ha la sua forza nel stare dentro l'Europa. Quindi vorremmo evitare di essere sempre messi dietro la lavagna come degli scolaretti. Questa è l'unica cosa che vedo critica nella nostra relazione con l'Europa. L'Europa è casa nostra, noi la vogliamo però diversa. L'Europa ha perso 250 miliardi di investimenti all'anno dalla crisi in poi. L'Asia e gli Stati Uniti d'America hanno recuperato ampiamente, anche con massicci programmi di investimenti, hanno recuperato ampiamente il gap di crescita che si era determinato. Quindi noi vogliamo un'Europa che vada sulla linea degli investimenti, ma non è un litigio. Noi dall'inizio, il Presidente del Consiglio ha chiesto un'unica cosa quando si trattava di eleggere il Presidente della Commissione Europea, perché poi questo Paese, come dire, è un po' smemorato. Noi abbiamo chiesto un'unica cosa ed era quella che il nuovo Presidente della Commissione mettesse al primo piano il rilancio degli investimenti in Europa, l'infrastrutturazione europea. Tutti gli analisti, persino il Fondo Monetario Internazionale, oggi dicono che le ricette dell'austerità stanno penalizzando la ripresa e l'occupazione, soprattutto abbiamo più di 20 milioni di disoccupati in questa Europa, non capisco come potremmo farli affezionare con ancora politiche di austerità. Non saranno litigi, però anche il possibile veto sul bilancio europeo è un macigno che rimane da parte del governo italiano. Questo fa parte appunto del fatto che qualcheduno si deve ricordare che in Europa ci siamo anche noi, ecco, che non è che l'asse franco-tedesco decide in tutto, bellissima solitudine, esiste anche l'Italia, esiste la Spagna. L'Italia è un paese che ha, come dire, certamente il problema del debito pubblico è importante, ma la nostra dialettica non è per indebolire l'Europa, è per fare in modo che qualcheduno si affezioni di più all'Europa, perché noi siamo fortemente europeisti e lavoriamo per l'Europa centrale. Io vorrei capire se con il no, perché lei lo ha detto, il no porta all'instabilità, lei l'ha detto anche qualche giorno, perché? Perché vi accusano anche di essere troppo catastrofisti, di dire, anche oggi lo stesso Bersani fa un'intervista a Repubblica dicendo gli italiani votino liberamente sulla Costituzione, non con l'idea di un macigno che se c'è la vittoria del no succede il finimondo. Ma guardi, come abbiamo detto prima, l'Italia è un grande paese, è un paese molto solido, con istituzioni molto solide, abbiamo un Presidente della Repubblica che, come dire, è molto saggio, quindi non c'è nessun catastrofismo da parte nostra. Nello stesso tempo, con la stessa identica franchezza, bisogna dire che è evidente che se vince il no si aprirà un periodo di relativa instabilità, perché noi ne prenderemo atto e poi il Presidente deciderà. D'altra parte vorrei ancora una volta, sempre per via di memoria, ricordare che nel 2013, non 30 anni fa, gli attuali protagonisti della scena politica non erano in grado di formare un governo, non sono stati in grado di eleggere il Presidente della Repubblica, quindi io sto facendo semplicemente una constatazione, ma dicendo assolutamente e ripetutamente che bisogna votare per la Costituzione e sulla Costituzione, non su Renzi o sulla simpatia di Del Rio, bisogna votare per la Costituzione, merita la nostra attenzione, quindi io sono il primo sostenitore di questa tesi. Dei meriti della riforma. Sì, dei meriti della riforma e soprattutto di non drammatizzare, perché non c'è nessun motivo per drammatizzare. Anche quindi quando si legge che, ne so, rischiano di fallire 8 banche, gli italiani non devono avere questa idea, no? Di dire se voto in un certo modo rischiamo di perdere i risparmi, per esempio. No, io penso di no, queste sono veramente come dire, interferenze e agitare dei drappi rossi così in maniera non fondata. Invece credo, proprio perché ho detto e ripetuto che il nostro paese è un paese solido, che fa avanzo primario, che ha un'economia sana, che ha una manifattura di prima qualità. Allora, credo invece che gli italiani dovranno preoccuparsi, casomai, del fatto che continuerà la confusione tra Stato e Regioni. Noi abbiamo appena impugnato una legge di una regione italiana sul foraggio dissuasivo dei cinghiali, cioè alti dirigenti della regione, alti dirigenti del Ministero dell'Agricoltura, alti dirigenti di Palazzo Chigi, e adesso la Corte Costituzionale si occuperà del foraggio dissuasivo dei cinghiali, che non mi pare, con i problemi che abbiamo, sia una delle cose su cui dovremmo impegnare gli altissimi dirigenti dello Stato e la politica. Soprattutto dopo aver passato anni a dire che l'Europa ci dava la misura delle vongole, come si vede anche in Italia. Appunto. Per questo lei è a favore della clausola di supremazia che viene inserita. Sì. Esattamente, sì. Perché noi non possiamo avere una sanità che... Cioè, io sono favorevole al fatto che in Lazio si organizzino come vogliono sulla sanità, perché conoscono loro le città, come dove mettere il terzo livello, il primo livello, eccetera. Ma non sono favorevole al fatto che tra una regione e un'altra esistano differenze nei diritti alla salute dei cittadini, perché se in una regione il 118 arriva in 7 minuti e in un'altra arriva in 70 minuti, la chiamata di emergenza, lei capisce bene che bisognerà un attimo metterci le mani. Però qui le faccio una domanda, proprio perché lei è stimato in quanto da amministratore locale, insomma la sua politica nazionale è cresciuta per quello che aveva fatto localmente, lo ha sempre detto e si vede. Allora, lei fa l'esempio della sanità, proprio questo è il punto. Con le nuove competenze disegnate dalla riforma costituzionale, era la sentenza della Corte, cosa succede? Che alcuni presidenti di regione, Lombardia, Veneto, che hanno un modello organizzativo di sanità diverso, cioè qui in Lombardia l'accredito ai privati nel sistema degli operatori privati è fatto pari passo sul livello paritario rispetto a quelli pubblici, nel resto d'Italia no, dicono col nuovo testo il governo interverrà nei principi generali, ma se non lo fa in pieno accordo con noi, noi impugneremo e la Corte Costituzionale, con la sentenza che c'è stata, ci tornerà a dare ragione. Quindi bisognerà in quel caso continuare ad avere un confronto con le regioni, non impositivo, ma avere l'assenso delle regioni, quelle che hanno un modello organizzativo diverso. Come si fa a imporgli la roba? Si finisce di nuovo alla Corte Costituzionale? Lei che dice? No, perché le disposizioni generali sono proprio appunto disposizioni generali, cioè noi vogliamo valutare le politiche, come esitano le politiche che le singole regioni si danno, e questa valutazione spetterà in definitiva allo Stato. D'altra parte oggi questa cosa succede solo sull'aspetto economico, cioè noi abbiamo già avuto un'interferenza dello Stato sulle sanità regionali, nel senso che lo Stato è intervenuto a tagliare i bilanci fuori dimensione di alcune regioni. Per il rientro coatto, come no? Esatto, allora quindi questa facoltà c'è, attenzione, sul denaro, ma non abbiamo la facoltà di intervenire per garantire i diritti fondamentali della prima parte della Costituzione, cioè il diritto alla salute, quindi si amplierà semplicemente la capacità dello Stato di garantire non solo un equilibrio finanziario, perché poi l'equilibrio finanziario si può fare anche sulla pelle dei cittadini, ma assolutamente invece una omogeneità di questi diritti su tutto il territorio nazionale. E sempre per fare esempi, io faccio sempre esempio, perdonatemi, della Flaminia, perché è un esempio clamoroso. Nel Lazio la Flaminia, questa bellissima strada consolare romana, è regionale nel Lazio, statale in Umbria e provinciale nelle Marche. Lei mi dica come faccio io a dare un'omogeneità di manutenzione. Tipo. Ministro, due domande anche sul Ministero, proprio sui suoi compiti. Le risulta che esistano degli esuberi di Alitalia, 2000 persone, e che dopo il referendum verranno comunicati dopo il referendum? Dunque, mi risulta che... Era un colpo di tosse diplomatico. Sì. No, è un colpo di tosse mattutino. Mi risulta che, perché ho parlato con i vertici dell'Italia, sì, che la situazione del bilancio non sia per niente come ci si aspettava. Sapevamo che l'Italia sarebbe uscita dalla lunghissima crisi in cui era precipitata solamente col tempo, ma si sperava con più velocità. Quindi quest'anno certamente avranno delle difficoltà. Con me non hanno parlato di esuberi e io penso e spero... Abbiamo parlato di rilancio del piano industriale, perché io chiedo a loro di fare un piano di rilancio. Abbiamo appena, ieri proprio, sono andato alla presentazione del nuovo piano industriale di EasyJet, ero stato quello di Ryanair, altre compagnie stanno investendo in maniera massiccia sull'Italia e i numeri del turismo dimostrano che questa strategia è giusta. Abbiamo abbassato le tasse in Italia per il trasporto aereo, tolto appunto un pezzo delle tasse importante. Sì. In questa nuova legge di bilancio, quindi io ho chiesto loro di fare un piano strategico di rilancio. Confida in questo, non esuberi, ma un piano di rilancio. In 10 secondi, ma la Salerno-Reggio Calabria davvero finisce il 23 dicembre? Cos'è il 23? Sì. La Salerno-Reggio Calabria è già quest'estate, ho ricevuto lettere di cittadini che mi chiedevano come mai non la pedaggiate, visto che è così bella e percorribile. Quindi però il 22 dicembre sarà finita davvero. 22 vabbè, ministro, che i calabresi scrivessero dicendo vogliamo pagare, no, è la notizia del giorno. Grazie a Graziano Del Rio, ministro infrastrutture e trasporti, ci buon lavoro. Fermiamo qui ci fermiamo per qui. Oggi grazie a tutti.